Ah, cosa dice la tipa? Una sala l'ho fatta solo, ma non capisco cosa c'è. Aspetta un attimo. Cosa sta dicendo? Male. Nessuno ti fa del male. Vogliono fare un fatto solo. Ti metti da solo, da un cucino e ti vedrà se sei positivo, no? Ma per aiutarti la tua salute. Ma da un cucino, capisci? Nessuno ti fa del male. Non fai da solo, ok? Stai sentendo? Sì, sto sentendo. Ma perché gli fate il tampone, scusi? Perché deve stare vicino ad un'altra persona e anche l'altra persona deve essere sicura. No, ma non è quello che sto chiedendo, scusi. Lei con chi? Lei come si chiama, scusi? Sono la della direzione. Ecco, dobbiamo, perfetto. Io le ho mandato una mail ieri, una PEC, scusi un attimo, che è strano. Gli ho mandato una PEC con alcuni punti che da chiarire prima di eseguire qualsiasi test diagnostico, perché quel test che state facendo ha bisogno di una certificazione ministeriale che attesti che questa cosa non sia delle... No, ascolti lei un attimo. Io ho dato la fiducia a questo ospedale per la cura, quindi segue le indicazioni di questo ospedale. È sì. Libero di prendere suo fratello e portarlo in un altro ospedale che eseguono le indicazioni che vuole lei. No, ok, sì. Per la vostra libertà. No, un momento. Parliamoci chiaro, scusi un attimo, parliamo da persone intelligenti. Prima di tutto, sono entrato in ospedale per una cardiopatia e non per ecco, bravissima, e non per Covid. E non per Covid, perché mi faccia finire di parlare, per cortesia. Abbia pazienza, sia educata e ascolti quello che le sto chiedendo, per cortesia, va bene? È d'accordo? Dopo l'ha soldato che sia d'accordo. Io ho chiesto esplicitamente con una PEC che lei mi fornisca la certificazione di quel tampone che sia efficiente, efficace e che sia approvato dal Ministero della Salute con una certificazione di laboratori controllati. Io voglio sapere quello, perché questo tampone ha effetti collaterali e poi ha l'effetto collaterale di isolare le persone con un sistema che comunque non è stato assolutamente certificato. Ha un falso positivo del 90% e lei lo sa molto meglio di me. Lei lo sa molto meglio di me. E quel tampone è un falso positivo... Ascolti. Lei quando compra il cotton fioc va a vedere se sono certificati? No, non mi faccia un discorso del genere, per cortesia, stiamo parlando di un test diagnostico che ha creato delle patologie non compatibili con quello che è stato rilevato poi successivamente. Lei lo sa molto bene questo. Noi dobbiamo, al di là di tutto questo, veramente, sia ragionevole. Lei ci tiene alla salute di folle? Io ci tengo alla salute di mio fratello, ma che non venga sottoposto a un test che non c'entra proprio niente con quello che gli hanno dovuto diagnosticare e per il quale è stato ricoverato. Non è stato ricoverato per Covid. Allora senta, non è questione del Covid come malattia, come la intende lei. È questione che abbiamo la diffusibilità di un virus e per stare in compagnia, in stanza, perché non abbiamo tutto l'ospedale tante piccole. Certo, sì. Allora, lei mi sta parlando di una cosa che non è stata assolutamente certificata. Se vai in ospedale, adesso ti viene un coccolone, ok? Sì. Stai in una stanza di un letto con un paziente con il Covid. Certo, io non avrei alcun problema, certo. Certo. Ti vuole stare? Certo. Se poi se lo prende, se vuole stare? Ma certo, ma perché è una mia scelta? Perché è una mia scelta? Ma perché è una mia scelta? Gli altri non scelgono, non faccia discorsi dogmatici di questo tipo qua, perché lei sa benissimo, lei è al corrente, perché le percentuali di comorbidità di questo tipo a prendere solo l'esame, appunto. Bene. A prendere nell'ospedale si viene curato senza questi accertamenti. Bene, e bene. C'è un'autosmissione. Bene, io però ho bisogno di una certificazione di quello che state facendo. Lei venga a certificare l'auto di Mr. Collero, perché non può comandare la propria Collero. Collero, se non è capace di intendere di volere, perché lei non è il suo tutore, Collero non è decerebrato, decide lui per se stesso. Certo. Può valere, ok? Io non le sto imponendo niente, lei mi sta imponendo una cosa, io gli ho fatto altre domande per le quali non ho avuto risposta e io gli ho mandato una PEC a lei e al dottor Tagliola, alla quale non avete nemmeno risposto, perché le certificazioni che ho richiesto, che sono doverose da parte vostra come istituzione, non sono state mandate, quindi questa cosa qua è stata ignorata. ignorare le richieste lecite di una persona, di un pubblico, in un istituto pubblico, non è una bella cosa. Se vuole le manda una richiesta da un legale, a questo punto vediamo se vi muovete. Io non sto facendo disposizioni per la salute, sto facendo delle richieste legittime. Non ho chiesto niente d'altro per quanto riguarda la femmina di Castello. Ho chiesto una cosa che riguarda tutti noi, perché come lei mi ha detto, se io stesso venissi ricoverato, sarei sottoposto a una situazione di questo tipo. E io voglio chiarezza, voglio semplicemente chiarezza, non gli ho chiesto di più. Lei non lo vuole dare perché non mi ha risposto né adesso né alla PEC che le ho inoltrato, che lei ha visto sicuramente. Sì, ma bene, sono venuto già in direzione ieri, ma non mi avete accolto. Lei parla per lei, mentre per quanto riguarda lui, parla lui, ok? L'altro è libero di decidere e di fare quello che vuole, non sono io chiaramente a decidere per lui, però io voglio risposte chiare e concrete su quello che state facendo, perché si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio qua, eh? Va bene, allora dobbiamo veramente, non so, chiamare i carabinieri, fate quello che volete, chiamate la stampa, chiamate gli SWAT, chiamate l'esercito, fate come avete fatto fino a 3 anni fa. Lo segnala l'autorità giudiziaria, se la vede poi lei. Ma certo. Buongiorno, lei stia bene.